giorno ti porto a vedere quella luna che si trova solo a sud. Però saremo soli. Forse in bicicletta, forse no. A piedi con un sacco sulle spalle. O scalzi magari. Con un paio di fotografie in tasca. Che opportunamente strapperemo. E finirà lì. Dello spazio radiotelefonico.